se la trovo una mantova, uno ve la prendo di scorta. Insomma, qualcuno magari non la usa più, ha svuotato tutto e ce l'ha in garage buttata e non se ne fa niente. Se te la prendono di 800 euro si può anche prendere, tanto a tua guarda te ne costa 200, ma non le trovi più ormai. Chi ce l'ha se la tiene, è diventata come la Firenze 2, di una volta quella la mantova. Chi ce l'ha se la bene, se la tiene ben fretta, capito? Lo so. Quella la mantova, cioè trovandola avrei messo solo la mantova 1, se mi regalano una turbo no, non la voglio, me la posso indinare. Mantova 1, mantova 5 ce la Mario Mazze, ma non te l'era penso. Ne ha tre di quelle antenne buttate a casa sua, capito? Perché voleva installare una volta e se la procurate, capito? Poi invece cambiate idea, perché adesso non sei a problemi di vista, quindi il figlio sta lavorando, non c'è tempo di niente, quindi ho gli apparecchi buttati in casa lì, non li usa, e l'antenna c'era in casa lo stesso. Chi che mi le dirà una balla, se non ce l'avrebbe avuta ancora? Ma lui gli avevo sempre la... se gli piace un'altra te la tirano subito, lì ci vuole la canna da pesca, l'unica cosa che potrebbe anche andare bene. La canna da pesca viene male a tirare la balla, perché è molto molto più fine della mantova. Si vuole, però sono dei bastardi, la verità, sono veramente dei delinquenti. Io lo so, ce ne ho due, una di fronte all'altra, hanno stavato tutti e due, mi non è che hanno stavato solo l'altra, a uno gli avevano messo fuoco alla macchina, a Mario la macchina non gliela mai toccata, però ogni Natale, capito, dovevo sempre controllare chi si metteva a sparare con fucile di notte. La verità, a me tanto non è che gente molto lontana, tu mi avresti fatto quello così, io come l'avrei saputo che tu ti avrei messo un bel gandelotto da ridare a Ianna, fatta brincare in aria, poi vediamo chi è che ride di più. Già si conosco, non ti preoccupare, già, adesso vediamo sappia chi è stato lui, capito? Penso che uno si metta a fare così, uno ti fa prima l'avviso, ti dà quella che stai turbato, tu dici a me non me ne frega niente, cosa del genere, per quanto controllato in piazza centralizzato, cosa del genere. E poi io non so come facevano, o ti chiamavano vescovo tu, e non andava bene vescovo, se ne buttava durante l'aria direttamente a pallini. Una massa di graziate, so. Lì non sarà molto lontano magari che l'ha fatto. Comunque ce l'ha ancora l'antenna e ce l'ha degli apparecchi, capito? Quindi non penso che magari se ne ha voglia un giorno mi chiamerà, la tavola che avevo fatto i tiranti, era penzolone il palo, l'antenna era ancora attaccata e poi se farete sopra gli hanno ballato come si chiama il palo e c'erano solo i tiranti che stavano tenendo il palo, c'era questa passata di vento, non potevano i pompieri, lui ci è salito sopra. Che delinquenti, eh. Sì, sono due palazzine amici collegati assieme, non è che ci vogliamo questo grande capire come tu mi dici. Spero che gli avrei fatto male io, cioè, e poi lui è uno che faceva molta radio a me. Vabbè, ma per non avere più problemi ha preso e allora ha conservato tutto. Poi, non lo so se Davide gli viene in mente magari in seguito di installare tutto, già se lo installerà, non si preoccupare. Sì, ma è un bel sboccato il subizzino, mi pare. Vabbè ragazzo, vai lì, cosa ci vuoi fare? Poi in seguito, quando metterà un po' di testa, limite. fino a voi. Non lo so. Comunque, no, non si fanno certe cose, andare a impallinare cose così. Ma sì, solo abbia avuto lo sospetto, abbia visto sparendo da rubacone. Cazzo, minimo succede un casino. Ma come ti sono fatto io? Via. Sì, vabbè, stai in economia, purtroppo è così. Una cosa è stare in villetta, in un punto alto, dove il più vicino che c'hai, neanche un chilometro di distanza. Sei tranquillo che sei tranquillo, dormi bello asciutto, perché non ti va, nessuno ti va per le balle. Lo so. Purtroppo. Gente miserabile, cazzo, ma ti giuro, ma solo se aveva avuto un cazzo dove sparavano, perché cioè, se me lo fa una volta, la seconda volta ti seguo a morte, ti seguo, ma solo dove avevi visto dove stavano sparando. Io ero andato di notte e non so cosa gli avrei fatto, poi non è manco un'idea, la porta di casa sua era successo un casino vero, ma sangue era successo, perché tu non puoi prendere e danneggiarmi la roba, perché succede sangue, succede. A me non me ne frega niente, io ando e ti pongo un cartaggio di punita dalla Ianna, poi boom, succede quello che succede, non me ne frega niente, la piangi. Sì, quella giornata non si è detto come sono fatti, non ci vedo più con io, chiaramente avrei perso a fianco dove sei tu. Ma quella là con la mantola, c'era la parabola, la mantola, tanto poi mi hanno rotto le balle, figurati. Sì, purtroppo l'economia è così, l'unica è se c'è baracchino andate in qualche villetta, non so vedo e sei tranquillo, a me non ti spara nessuno ti rompe le balle. Ma non te ne scatto nessuno, sono salito stamattina, muda e cagliati, sennò guai. Ehi, perché è andato poco a fare? Dove ci sei riuscito? Sì, ero, il portiere mi ha arrivato, lui mi ha macchinato, Roberto, affianco a me. E sono andato con lui, capito, un passo dopo me, ero anch'io. Sono di nuovo qua. Ah, capito. Ok, infatti, non io sono salito, dice. Se scende male, briciola! Se mi ci combino me! E che se non scende male qui! No, c'è boh! Ecco, adesso ho passato! Come? 1, 2, 3! Adesso va bene, se compriamo la massa! Comunque riprende te voi, dai, riprende a tu! Cappa! Era un po', stava innescando, adesso va bene! Devo passare pure, dai! Questo asciuga, era un po', magari! Però adesso va benissimo, va! Ma quello là, tu lì, non ce l'hai più! Quale quello là? Quello uguale al presidente! Quello uguale al presidente! Cioè? Come si chiama? Sono pochi. Sì, certo, 40 gambe di voi che abbia. Cazzo non vede nessuno. Vabbè, chissà, qualche extraterrestre troverò oltre. Ma l'hai venduto? Ah? L'hai dato? No, l'ho regalato, non l'ho venduto. Sì. Ehi, allora con mio romano l'ho regalato. Mi ha spedito la cassa dei vini, ma avuto vino alle voci. Ah? Ho vini e frascati, quello buono a me. Ehi, allega, se la lui. Ma io ti porto il vino e tu mi hai. Chi si giovi quei appiccati? Sì. Giove Sarfizza, ma niente. Ma non c'è un giove di Sarfizza. Dottor Magnata di Rai, bravo sì. Cazzo di Rai, se si fa vedere di Rinaldari. Sì, ce l'ha tutto da Magnata. Ce l'ha fatto via, come lo c'è in Marimocco, no? Tu che stai parlando? Il tempo di Natale. Guardo, comunque, niente, io sto cercando cose buone a comprare, non c'è niente. Vedi l'Artur dove ce l'ha comprata, l'Artur niente ce l'ha a vendere, l'Artur io. Io no, non ho niente da vendere. Io voglio la paracristazione fissa. Oh, non ne ho di quella roba. Ce l'ho piccolare, boh. No, io non voglio stazione fissa che fa tipo grassa per me, come. E poi ho capito dove devo andare, dai, ce l'ho preso. Penso che faccio un viaggetto, mi vado a Roma. No, non ne ho proprio. No. Sì, già so con una di che non faccio più di sé radio. Sì, Antonello, tu ci chiedi, ma in mano ci metti? Tra poco ci metti uno dei voti. C'era uno l'altro giorno, stavo andando un 130 euro, ho fatto un metro. Fatto dei ultimi giorni, ieri ho fatto 1,250. Poi c'è un altro 300, qualche cosa mi sembra, o 300. Che peccato, l'avevo anche mandato un messaggio, ma e poi c'è chi chiama, mica ci mettiamo d'accordo, invece poi ho dovuto passare il telefono a mio fratello e non l'ho chiamato. Ha detto vabbè, già mi è contato, mi sono serviti quei soldi per prendermi lo scooter, capito? Ho preso 150 euro di scooter. Ha avuto una baracchina, un aggiunto di baracchini, c'è un 2009, l'altro 2009, perché volevo chiamare l'avanzo? No, io sono tolto 50 subito su anche adesso, mi fatto, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, anche con Simone di Roma ho parlato, l'ha detto ex agente pazza, ah, questa signora la voleva 180 euro, su ma che prese era? Ce ne aveva su uno, 2,50 le vuole, se ce l'ha qua, su ma che prese, controlla. C'è 2,50, no, ma a me piace più, a vedere a me mandare soldi così non mi piace, un flisso, no, non vada bene, tu per tu vado, se ce l'ha, fai vedere, proviamo, qua, là, la tutto qui, e allora torni di là, se no nulla. Sì, va a Piero il cerco PMI, dammi l'apparecchio, ci trova due soldi e me lo porto via subito, me l'hai detto là, tanto non ne vedo mai dove da sapere a fare, appena l'ho incominciato. Sì, ma questo chi è? Uno non ci ho preso. Piero Drago, chi? Non ce l'ha più Piero Drago, l'ha venduto. Ah, venduto ce l'ha, mica, allora, niente, se pensavo che ce l'aveva ancora. Io ce l'ho chiesto una volta, telefonato. Chi se vuole te, vende tutto. Poi come Emanuele, Emanuele si vede, è lo stesso. Avanti Emanuele. Ma cosa ne fai? Ormai non ne fai più nulla. Ormai tutto è malato. Basta uno. E tu cosa ne fai? E allora, le prendi Antonio? Sì, non è che prendere tante radio oramai, no, non mi pare più la pena, no. Io già ci ho avuto radio bella e radio di tutto, ho avuto anche Galassi, ne ho avuto le radio. Adesso ho le radio essenziali, dai, le radio più essenziali. Io conosco uno che ne ha 2 o 3 di Galassi, ma non le ha. Ricordo, sono pieno di più, ho fatto lo zerazzino, forse avete capito che è pronto a te, Emanuele, vado a lanciare, abita lì. Ne avevo uno, l'avevo venduto molto tempo fa, l'avevo venduto. Ed era bello, eh. L'avevo chiamato TS450, nuovo, pagato 500 euro e l'ho venduto 6,80. Uno è nato all'alto, è nato anche sopra la benzina, che sono andato a Ubi a portarglielo. Ne ha avuto di questa radio e in chi vede già virare di là che si rompe. Adesso no, non più, adesso vediamo più in là se gira un po' di lavoro, vediamo cosa comprare. Beh, se no già rimane in chissi le radio, non è affatto assai. Sì, infatti, ma vedete che fai, infatti, non si tede, è radio che tede qualche passo a giocare, ma... Oh yeah, avanti a tornare. Sì, c'è poco, io non so anch'io. Oh yeah. Ma sai quanto vuoi tornare a fare il fiume? Qua. O 2009. Mezzo, a volte non c'è... Ma sono qua, qua sarebbe per pagazione, allora mi faccio un giretto su... 27 e 200 in FM c'è un ponte radio ucraino e mi diverto a parlare. Infatti sai, io dico una cosa e dopo 3 secondi mi sento la voce mia. E cioè? Un ripetuto pappagallo si chiama quello. Cioè pratica tu parli e dopo 3 secondi ti riascolti. Capito? È un ripetitore che c'è in Ucraina. Cioè, se non metti a fare il numero di telefono, sono qua derrata. No, non è che vuoi telefono, parli 27-200 in FM, quando c'è preparazione, senti il ponte che fa, quindi, allora, quando lo senti tu dici, 1, 2, 3, prova, e dopo nulli, ti senti la voce tua, 1, 2, 3, prova. Aspetta, è un ponte simple, che si fa parlare loro, si chiama. In Ucraina. Adesso faccio una cosa, mi cerco un frequenzimetro, lo installo qui e così c'è la frequenza. A 27-200 sarebbe che il canale è a Torè. Il canale 20 sarebbe pratica, 20 e 205, quindi dovevi trovare indietro di 5 kHz. Ecco con la malata, l'ha capito, se c'hai un 200 canali, 5 kHz in meno, in FM senti che l'Ucraina parla in frequenza pari, noi siamo in frequenza dispari. Capo, adesso poi ti sposti, dopo le corse, praticamente te lo metti a posto, meglio, cazzo bene me da. Manuel, è luce, è riposo, sì. Già riposo, sto facendo la notte, devo alzare alle 10:30. Cazzo, come le mattone fai la notte? Purtroppo, usa una valla. Ma sei sempre vicino? A troppo reale. Cazzo. Ma col cocomio passa anche i minuti, ma... Sì, già passa, già avviso zingari, non ti preoccupare. Quelli cercano il rame, l'oro rosso, funzionosi di vecchia. E appunto, dove sono io c'è il rame. Mi ricordo che stavo traboccando, ho cercato di entrare più giù dell'Itas, in via Solari. Cazzo, lei mi trovo giù l'Itri con quella rame, Kiwi. Sono andato a tagliare, abbiamo trovato noi, la cesoia, incollata. Sono fuggito, ho rimpiato una bella costruzione di correnti. Sei caro tu via, la corrente. Per carità, che gente là, ragazzi. Ma dimmi tu, un impianto in funzione, tu vai a tagliare i capi. Ma cazzo, rame. Io mi amo per casa che c'ho, che non trovo nessuno, vabbè qua sempre c'è gente. Quindi c'è Vittorio che si può far fuori, con la scusa di farsi il giardino, il coso, e piantare frutta e verdura, eccetera. Roberto lo stesso, insomma, bene, però è difficile che entrano qua, ma sarebbe ragazzo qualche uno che vicino e occhi. Io penso che non denunciano. O forse sottoterra, per la gente lì bisogna stare attenti, specialmente questi romini che fanno danno, romini albanesi. Voi abitate che chianti, grazie al governo di sinistra, al governo di destra, che ne fanno sempre entrare. Io ti avevo conti tutti i mani, ma come ce l'hai fatto? Tutti a cura. Iniziato dal sindaco di Sassari, il prefetto di Sassari. Non volevo buttare fuori, buttiamo fuori a voi, voglio venire. Carità, hanno rovinato tutto. Non lascia più un magazzino libero, c'è sempre chi ti guarda. Adesso a carne ancora a bici, penso a carne è qui già ancora. Perché abbiamo un governo e dei sindaci e dei... cos'è la regione che non vale nulla. Ecco qua cosa. Questa è la colpa di Antonino Pompuglio che rimase entrare. Sì, faccio entrare dalla punta e faccio scivolare la finestra. Ma è vero, non si può dire che sono piano terreno, piano terra. Ma te se li fai scivolare con gli ci fate male. Sì, noi si è pigliato la sentia a lei. Hai visto ieri in TV alla Finvest. Quello si parte dalla macchina, va a mettere la garage interna e il tempo di un'ora e mezzo, due ore, se non si trovi né sportelli, né vuoto, né niente. Vanno con la valigetta, montano il tutto e si vendono i pizzi. Vanno a fare gli investimenti adesso, eh? Si può provare la crema, ma devi stare molto attento, mi sa che non l'ha fatto mai compresa. Antonio, riprendita che c'è parcheggio. Gappa, via. Chi si vuole il biliardo e cose affusilate vuole. Sono dei ladri, sono maledetti. Anzi, ma guarda che faccia, ne fa passare. Cosa? Ne fa passare la cassetta, sta facendo. No, no, chi sa la sua storia? Chi sa la buttata di busso d'orra? Se ne ha fatto un maestro del gallito. Cata una notte c'ha di amare, non voleva avanti a più, cosa faccio, cosa non faccio? Faccio pure questa gassettina, beh qua, un'altra storia. Chi si gattavo nel biliardo e morse, sono ladri, di ne furano in tutto, di ne furano, non puoi lasciare niente fuori. E gli altri trattori con le storia, non si può camminare a piedi, ho seguito le manuele, tutta quella zona, un mercurio era diventato, prima era sempre pieno di gente, rimanevano fuori, seduti, si divertivano, si mettevano in gruppo, tutto vicinato, uno in uno portava la cosa, un altro portava l'altra, quando facevano la tavolata mangiavano in mezzo alla strada. Carità, in mezzo alla mondezza che si rimangia lì? Ah, in mezzo alla mondezza, io sto parlando delle vie con le strette, ma si potevano chiudere, capito? Io, no, con le larghe come fai, anzi, gli altri casino quando vai in certi bar che ti trovi le sedi fuori, quando passa il tram, ti bevi la birra insieme alla... quello che butta fuori il terrore. Allora dai, io mi sposto che mi sono chiamato. Dai, ci sentiamo, ciao Antonio, ciao Manuele e ciao Antonio. Alla prossima, ciao ciao. Ciao Antonio, ci sentiamo. Antonio, ce la risentiamo. Fatti Manuele. E ancora un attimo, ma sento se è calato. Io. Antonio. E io sono qua. Sto facendo un giretto per se sento qualcosa di buono. Sta arrivando, cazzo. Chi sono quelle? Sono ragazze che lavorano a Faccenza, in Piazza Andanna, che è quella RSA. Lavoro di Ravenzo, ci hanno portato invece, lo sento tutti i giorni. Sì, sì, beh, sono proprio quelle frequenze lì, hanno preso. Sicuramente lavorano con quelle. Sì, io non ci sono solo loro. Aspetta. Cinque, se parli ti sentono. Non c'è neanche loro se parli ti sentono. Si è portato la direttiva proprio lì. Ho portato la X300, ci ho messo la direttiva sopra ieri. Proprio fatta puntata a Monteoro, quindi a Pedalora ce l'ho proprio in pieno. Dimmi a bassa voce, sto arrivando. Senti, con l'altro venite a pompa, dove dici in HF? E già in basso lo voglia fare già. Sono un bel forti. L'unica cosa che ho seguito se c'è il problema proprio il motore e così lo faccio girare la bella da casa, così vedo se c'è propagazione. C'è un biglietto che sta parlando su canale 7 adesso, canale 7, canale 6, c'è la zona del Friulense a Giulia, capito, Toscana, eccetera eccetera, usano tutti l'antenna in gomma. C'è più addirittura anche la stazione fissa, figurati, per fare i collegamenti. Ciappa, già lo so già, cavolo, mi sto addormentando, mi sto, lo sai, c'è il bambino che si è addormentato adesso, mi sto addormentando pure io. Ma non ti dormi tu, no, si sveglia lui, no? Lui, sa che tra un po', me lo faccio un po' una pennichella, tra un pochino. Se non ti sveglia lui. Tu immaginate quando la piccola Giovanna gli faceva fare il giro dall'appartamento via di sede, dove era 200 metri quadri, in carrozzina per farla domandare. Era l'unico modo. Lo so. I bambini sono così, so che ci devi stare attento. Già lo so, già, dillo a me. A Giovanna gli ho fatto la babysitter io, da quando è nata fino a 2-3 anni. Dopodiché devo parlare io perché non potevo andare in giro, capito? Allora mia madre, però quando le cose tu dici a scuola, devi rimanere qui, devi tenere la bambina, devi darmi la mano, eccetera, eccetera, quindi erano 24 ore, lampade rotte. Cioè, buttato a casa, di là, no, qua. Allora mi facevo la baracchina, ogni tanto quando c'avevo 2 minuti liberi, entravo, allora c'era un sacco di gente, c'era che parlava la baracchina, anche la notte. È diventato più grande, ero più libero, uscivo in moto, facevo giri, andavo sull'alberghiero, a Mare Manca, dovevo la birra lì, ci volevamo con Andrea Maricovio e altri che mi distassero lì, ci rinnovavamo, ma sono stato a casa mia, a me. Il mio è stato migliorato, aveva fatto quel periodo lì, ci abbassavano più CP che altro, che vi ha detto. Mi è entrato Gianni, buonasera. Buonasera a tutti. Alessia, stai facendo malissimo. Ma è come? Fatelo. No, sempre fuori frequenza, tutto strappato. Forse c'è il muco un po' alto, cioè il vecchio un po' alto. Ah no, aspetta. Guarda adesso è migliorato. Sì, adesso sì. Si è sollevata la potenza, lo sai che il 140 si solleva la potenza dopo un po' di tempo. E sono anche con il microfono normale, non so usando l'amplificato. Esce bene, esce bene. Già va bene, meglio così. Ma non te l'avevi venduto, io mi ricordavo che te l'avevi venduto. Ah, oh, lo stavo vendendo la verità. E allora che chiamato? Ma ha chiamato anche cosa per darglielo addirittura? Come si chiama? La sua cuffia, il radiatore che lavora all'Esco, forse. Già hai capito che mi sto dicendo, ma mi ha telefonato lui. Dice, lo sto vendendo, tanto mi ha detto che lui. Ho detto, guarda, gli ho detto, la verità gli ho detto, non lo sto più vendendo, gli ho detto. Si sempre qua a casa. Allora mi ha detto, va bene, pazienza, mi ha salutato e noi anche ci sentiamo, ci vediamo, io sono meglio di noi, va bene. Perché non conviene venderle, perché poi non ne trovi più buoni, capito? È difficile. Poi c'è per la Boccaria. Allora. No, quello che c'ho io è perfetto, però io l'ho comprato da un negoziante, hai capito? È stato tutto allineato, tutto tranquillo. A me Giovanna mi ha detto, se vendi il keyboard, mi ha detto, te ne sacco la testa. E non ti parlo più, ma dici. Perché? Cosa ne so, si è occupato Baracchina che il 2009, già lo sai, c'era il 2009 con la magnetica che gli ho dato io, quella che avevo comprato la Superlem e quella Minox, invece l'altra Superlem, quella lunga, l'aveva regalata a Fabio Master. Ma praticamente non la sento mai, non entra. No, non è che non entra. Già può entrare, già entra qualche volta. Il fatto che c'è mio nipote che, capito, si mette a toccare tutto è un casino. Il discorso è quello io. Magari tocca quello che non deve toccare, ma dopo le cose del genere e rischia di bruciare l'apparecchio. Adesso per la sacco la questa antenna che ho, sto usando adesso, che ci rimetto la Mantova, questa la metto dalla, a posto dell'antenna VHF e ciò, e appena c'ho un po' di spiccioli compro 60 metri di RG58 e glielo scendo giù direttamente in casa il cavo, così almeno gli faccio mettere l'apparecchio sopra qualche mensola in alto, in modo che il bambino non ci possa arrivare. E campa, cosa fare così, se non senza l'antenna è sempre un punto di domanda, se uno non ha l'antenna non può uscire. E campa, bene, ti arrivo già a posto, uguale all'altro. Fa lo scala, sia. Lo scala? Ma cosa c'hai di apparecchio? C'ho il gas adesso. Già va bene, dai. Poi magari c'è anche di più, non lo so, però il gas arriva fino a 9.30, poi non da di più. KK, già funge, già funziona, dai. KK. Ah, già va bene, le stagionali misurate, direi. 1 e 1 sono. Tutti i canali? Io. Sono nel 40 appena di più, ma non me ne frega nulla. Ma 4 di più. Ah, sarà 1 e 2, dai, neanche. Ma tanto nel 40 non ci vado mai. Ma 1 e 2 va benissimo, ma tu, sai che sta scherzando. 1 e 2 va bene, non c'è problema. Dopo 1 e 4, 1 e 5 cominciano a essere alte. Ma 1 e 2 va benissimo. Ma è stato un 90, quindi mi basta così. Ma infatti siamo sempre sul 10 noi, o sul 10 o sul 23, ma in questi giorni non c'era né sul 10 né sul 23, boh, non verrà nessuno. C'era solo quello di Osino ogni tanto, che lo sentivo tu. Come si chiama quello di Osino? Non mi viene adesso. Uranio. Bravo, adesso me lo sono ricordato anch'io, uranio. È uranio. Il ditturato nuovo che ci aveva un sacco di tempo fa. Cosa lì? Mi sono ricordato del nome, perché gli avevo messo il soprannome un sacco di tempo fa. Già lo so. Infatti io mi ricordavo il soprannome e il nome, no? Il nominativo. È appunto per quello, vabbè. prima abitava in alto, cazzo, mica è ammazzata la roba di gente, dove abitava la prima volta che è entrata. Mi sembra che è stato lui nel 2000, no, forse anche prima, o nel 90, adesso non mi ricordo bene. Però dava mattana a me là di sopra, arrivava alla Maddalena, arrivava tranquillo. Questa lui, poi anche Gianni Bravo 2 era in un punto alto, e coso, come si dice, Franco la Comunetta, no, Franco la Comunetta mi pare che si faceva chiamare. Ah, certo. Mi stavo andando in bagno, io stavo andando, un attimino. Ehi, vai in bagno, io mi sono a casa 3 giorni, ho male di denti, mi è venuto l'ascetto e ho dovuto prendere l'antibiotico, voglio dire, io mi sono mangiato il tonno piccante con l'insalata, ma è più, ma ha trombato come un asino, e allora c'è qualche dente che è bucato, perché sennò non fa nulla. Magari c'è qualche cane che conviene curato, perché sennò qui ti fa soffrire sempre. Come dice quello, tolto il dente e levato il dolore. Io non lo so da usino, sono arrivato ad Abbasanta da usino, con la macchina, con la Turbo 2001. Già lo so, da lì ha voglia. Anche cosa, anche da Ussi, se vai su Literai arrivi un bel po' lontano. C'era Andrea Maricopio quando usava la 1 con 550, si metteva lì col 2009 su Literai, prima del curvone per andare a Muros, di lì, arrivava un bel lontano, capito? Andava di nuovo, parlava tranquillo. Parlava con Antonio, no, quello dei Rossini parlava, sembra sia Antonello, ma cosa c'è? E le zone altre sono favorevoli, non male. Se tu poi vai dove andavo io, su a Usino, dove c'è Nido dell'Aquila, il rifugio dell'Aquila, lì dove c'è la chiesa, c'è quello spiazzo lì, e da lì, parli con tutto il mondo, non ci sono problemi, anche dalla macchina. Quello è un bel punto, È un bel punto, sì. Se arrivo 9.30 a Sassari, da lì dalla macchina. Io basta buscare una energy mezza onda, vedi un treppiedi, piazzi da quell'antenna lì dove è tutto, c'è vicino alla chiesetta, e parli con tutto il mondo da lì, anche da lì ci sono solo avere le lineare. Vittorio ci andava spesso in furgone, si faceva le foto, ci faceva lì. Io lo so, ci siamo anche trovati, ma non c'è bisogno dell'energia, no? Casa con la Turbo 2001 arriva tutti i massimi. Sono arrivato in Inghilterra io dal quadrato, dal parcheggio di fronte alle 15, c'è presente quel parcheggio che c'è, mi sono messo lì e sono arrivato in Inghilterra. E lì già lo so, è tornata anche quella. Questa è dove c'è il depositore dell'acqua, più su delle querce. Ma se avete dritto, arriva il depositore dell'acqua. Lì dove c'è il capo di calcetto. Da lì arrivi ovunque. Adesso lì hanno costruito a metà strada delle villette prima di girare per andare a Usino, ma sono belle le villette, sono villette a schiera, i soldi ci vogliamo per comprartela una di quelle, sarebbe andata bene a me, non ti devo fare male a nessuno, li abiti tu, è tutta roba tua, c'è il giardino, ci parcheggi la macchina, se vuole un cane vola, per sicurezza non serve qualcuno che venga a mettere di entrare. E lì cos'è? Comune di Usino di Sassari? No, Comune di Sassari, strada fatale, adesso non mi ricordo se dove, come si chiama. ma c'è anche qualche tram lì, la 7 passa lì, lo sai. Adesso fa via Coso, via Milano, la 7 sale su suo dritto, poi gira e arriva fino a dove sono quelle quelle villette, poi prende, scende giù, fa via Carlo Felice e arrivi proprio sotto casa mia, appena appena più giù del bar di Andrea, c'è la fermata, c'è proprio il bar sotto adesso. Io adesso sono da quando avevo 18 anni che non prendo il tram, da quando io ho avuto la macchina, il tram non l'ho più pigliato, non so manco dove andare a prendere i biglietti, niente, non, proprio sono fuori dal mondo. Ah, io prendo il tram, anche Giovanna lo stesso, quando vai a fare i documenti non conviene uscire in macchina, perché alle Conce non c'è parcheggio, poi al centro storico non ci puoi parcheggiare lo stesso, e ci sono certi punti che veramente ci sono tante di quelle macchine parcheggiate, non ci fili manco un ago dentro, quindi conviene scendere il tram. O prendi la 6, o prendi la 7, o prendi la 25, sono gli unici tram che puoi viaggiare a tutte le parti. La 1 va a Piandanna, poi torna dietro. No, io non l'ho più preso, da tanto tempo che non l'ho preso. Poi c'è questa 25, non la conoscevo nemmeno che c'era addirittura. Sì, la 25 sarebbe la 5 e la 2 messe assieme, in pratica, capito? Fa il tracciato passa via Levante, poi via Turatti, capito? Poi sale su via Cosa, dunque via Abruzzi, poi passava dei pompieri, tira dritto, via Carlo Felice fino a arrivare su al centro ecologico. Lì dove c'è il centro ecologico c'era una viuzza prima, non lo so se c'è ancora, si andava in fondo e si vedeva tutto Sassari dall'alto. Sì, c'è ancora quella vista, c'è ancora. E io andavo, ma mi ricordo che ero un ragazzo, avrò avuto 18 anni, andavo a fare gli estali. Noi se ne vado su, lì dove c'è il... come si chiama? Capo di calcetto, ci mettevamo lì con Andrea e ci divertivamo. Immaginati che se vai ancora un pochino più all'interno di lì, c'è un punto dove in pratica sei libero sia per la parte del monte, la Tamarona, vedi la Corsica, vedi? Ti mettevi lì in mezzo con il lineare, non facevi parlare al ghero, che era di Ravi Mazzana, arrivava a 9.30 a quel punto lì, era l'unico punto di lusso che c'era. C'è questo tipo qui che c'è il terreno, tutto chiuso con la legna, il muro è fatto in legna. E poi c'ha due ingressi e mi sembra ci sono dentro tre ville, non so di chi sia. Quanto cosa hai fatto? No, adesso sono qua già. Ah, ci sei. Cappa. E quelli sono punti micidiali, sono, che arriva molto forte di segnale. Beh sì, ma poi quello di Osino è proprio il punto migliore che c'è. È alto, tutto libero, si vedono le centrali uniche da sopra. Perché sembra che sei in aereo quando sei in chita. Già lo so, già. È un bel punto. Oh vabbè, ci sono punti dove c'è il pro e il contro, ci sono punti più bassi dove arrivo in certe zone no. Ciao Gianni. Ciao mamma. Allora Giannino. Chi è? Carlo. Ciao Carlo. Non ti avevo riconosciuto, scusami, tutto bene Carlo? Tutto bene, me l'ha detto Antonio che entravi stasera. Ah, ho capito. Sì, non l'ho detto io, non sta piantando nessuno e ho detto verso le 6:30 solitamente attacco io, guardo se c'è gente, intanto le radio le lascio sempre accese, perché se no si sbagliano. un periodo ho lasciato aspetto per un bel po' il gas e stanno dando il numero, il frequenzimetro, non si accendevano più i numeri del frequenzimetro, poi come ha scaldato non l'ha più fatto. Quello è magari un po' di umidità, perché se non le usi accade così. Tutto bene Gianni? Sì, grazie a Dio sì, tutto bene, dai, non ci possiamo lamentare. Tu, ti ho pensato l'altro giorno, devo chiamare a Carlo per vedere che fine ha fatto, non ho più sentito, ho impegnato. Io, diciamo, un sacco di impegni, eccetera, ogni tanto sento qualcuno, stasera presto ho sentito Antonio, l'altra mattina ero con Giulio, e io attacco ad orari un po' particolari, un po' di mattina, un po' di sera, qua e là, e quindi è che in macchina l'avevo tolto, ho capito, e quindi è per quello che mi sentite anche molto, molto meno. Ah, non è più messo in macchina. No, l'avevo tolto anche perché hai visto se ti beccano poi parlando, eccetera, è un casino adesso, anche se insomma è difficile che ti becchino perché tieni il microfono in basso, non è che ti vedono. Ah, io lo tengo sulla gamba, mi sento lo stesso, lo tengo sulla gamba, parlo tranquillamente e poi vedo che c'è qualche pattuglia, lo metto un appoggio e basta, tutto lì. E loro non mi possono dire che sto parlando, se io sto facendo ascolto e basta. Ho capito, dai, sono entrato a gamba tesa. Ciao Antonello, Antonio, non so chi altro ci sia. Ehi, ciao Carlo, ben scucito, ben entrato, anche a te, avanti a tu. Ciao Carlo, buonasera, ben rientrato. Perché volevo salutare Gianni, quindi come l'ho sentito ho premuto e sono entrato, scusate, tanto io sono qua in cucina cucinando, dai. Vai Antonio. Capo, hai fatto bene, hai fatto. Grazie Carlo, sei un amico sempre. Io nel tuo cucchiacco al lavoro c'era la settimana scorsa. Diciamo che al lavoro adesso si parte, eravamo sempre in sordina perché pochi voli hanno lasciato, la società insomma è quella di Olbia, adesso è tutt'uno, F2I, che è diventata padrone sia di Olbia che di Alghero, e quindi ha fatto diventare Alghero come Olbia, perché Olbia nel periodo estivo ha il boom di voli, però d'inverno era un mortorio, e così ha fatto diventare Alghero. Invece Alghero al contrario aveva i voli anche d'inverno, aveva voli che collegavano un po' mezza Europa, c'era Londra, c'era Madrid, Barcellona, c'era Katowice, la Polonia, c'era Colonia, insomma la Germania, c'erano un sacco di destinazioni, Londra, e poi hanno tolto tutto e d'inverno hanno lasciato insomma i voli nazionali solamente, però adesso dal 1° di aprile dovremo riniziare insomma a marciare. A te il mic Gianni. Ma eravate fermi adesso momentaneamente, stavate lavorando voi oppure eravate fermi? No, noi già stavamo sempre lavorando, sempre, perché comunque abbiamo tutti i servizi, vigilanza, pattugliamento, ho capito, la gestione del varco carraio, quindi il personale a tempo adesso entra dal 1° di aprile, capito, noi che siamo fissi e già lavoriamo tutto l'anno. Ma è meglio così, da interessante lavorare. No, sono venuto l'altro giorno a prendere un'amica mia che veniva da Milano, praticamente sono venuto a prenderla perché non conosceva nulla, dovevo venire qua, dovevo andare a Sorso, però non sapeva cosa prendere, e niente, ho detto vengo io, ti prendo io, sono andato a prenderla. Ho capito, solo che adesso gli arrivi sono in fondo, ho capito, prima erano vicino e quindi magari vedevo qualche persona in più, invece adesso sono giù dove dietro il bar, dove erano un tempo, no? Sono ritornati lì, li hanno ingranditi da quella parte. Adesso in questi giorni, da ieri sono iniziati i lavori, i nuovi lavori, devono alla allargare tutte le partenze, perché non bastano più i gate, quelli, i pochi che ci sono 5 gate, ne devono fare altri 5 adesso, e i lavori sono iniziati da ieri praticamente, potevano farli d'inverno, invece è nuda, adesso che sta iniziando la stagione si sono decisi. Ma sempre così, anche le strade si decidono a asfaltarle sempre quando ci sono i turisti e cose, va. Come fare? Non comandiamo uno, che sono loro che decidono, e quindi noi ci dobbiamo sempre assoggettare ciò che fanno loro. Va bene, avanti a poi. I soldi arrivano sempre d'estate, ma l'inverno mi prende per fare le cose belle. Uia. A me lavoravo di notte, capito? Ma di solito si lavorava di notte, adesso non si lavorano più a asfaltare di notte. Per carità. L'estate se ne ricordano, con un caldo che è 40 gradi, lavorare in mezzo, con voi con 4 anni, nulla. Sì, sì, sono tutti i campi fuori di testa, insomma, fare. Però meglio tardi che mai, alla fin fine. Ah beh, quello sì, meglio tardi che mai sì, caldo di credita. Scusate un attimo, che sono ai fornelli. Ok. Cucina del babbo, la mia. A quest'ora è ora di fornelli, perché tra un'oretta circa qua la truppa inizia a protestare, cosa si mangia eccetera, quindi capito. E cappa, e così funziona. Io adesso un po' mi alzo pure io, rottura di balle. Quindi Antone, ti cambi l'antenna in questi giorni, tempo permettendo, ti ho sentito prima. Mi ho già cambiato una, ne ho già cambiato. Sono proprio l'acqua, non ho capito perché. Sono smontata, comincia facendo il suo palpetto, tutta questa acqua, io dico, ragazzo, non viene da quest'acqua, era a galla l'acqua, me ne scendeva ogni volta che facevo umidità, me ne scendeva la piele, l'acqua direttamente dalla calza passava, veramente la devo HF, poi l'ho tolta, l'ho smontata, ce l'ho qui, è andato e ho pensato alla direttiva, infatti mi guarda, senti, adesso. Adesso funziona dalla bomba la direttiva. Allora tocca la cosa, anche la 27, prima però devo graffiarmi il palo, perché c'era un ruggine. Quando ho messo l'energia, ho messo il provvisore, ho messo tanto per farla funzionare, per parlare. E quindi prima graffio il palo bene e poi ci rimetto la mazza, è già pronta. Devo per fare solo i radiali, ma li metto su direttamente, posso rimettere di giù, se no mi incasino la vita. Una volta che messo nel palo, poi a una luce l'infilo, giro l'antenna piano piano, la sotto la ci metto nel vitti, poi il piatto PL, avvito i bulloni del coso della staffa, è fatta. E ci ho rimesso l'antenna su originale di una volta. Se questa la tengo di riserva, la lascio a Giovanna, appena c'è un po' di soldi, copro il cavo e viene piazzo a posto dell'antenna VHF, tanto non lo sto quasi usando la VHF, quindi tanto funziona lo stesso per quella, sia per la VHF che per la 27, ho già fatto la prova stasera, l'energia è una bomba. Ho capito, ma cosa hai messo? Cioè, ci colleghi la radio direttamente, TRM? Ci ho collegato il TMF nella direttiva che ho fatto. Ci ho rimesso la direttiva come c'avevo prima, l'ho staccata. A posto di quella dell'X300, quella bianca, verticale, l'ho scesa giù perché si è riempita l'acqua. Ho tolto il bollo vicino che c'era la massa, ha cominciato a scendere tutta questa acqua, cazzo detto. Infatti adesso faccio asciugare tutto tutte le spugliette interne che c'erano erano tutte bagnate, che tenevano il filo di rame della VEU, separato dal coso, dalla plastica, no? Della vita in verticale, tutte bagnate, non so dove entrava l'acqua. Adesso quella me la metto in garage, me la tengo da una parte, lascio la direttiva e basta. Eia, fai bene, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Che radio sei usato? Oh, come quella che ha Giulio, l'altra non ce l'ho più, ma la sono venduta. Quella che hai aggiustato? Sì, esatto, l'avevo aggiustata, si era bruciato il... diciamo la manopolina d'accensione, però Albino me l'aveva messa a posto a Borore, capito? E quindi, però quella radio creava problemi di spurie e quindi disturbava un bel qua, capito? Qualcuno che aveva le casse col computer, eccetera. E invece con questa non fa assolutamente niente, ha gli stessi canali, anzi forse ne ha qualcuno in più, è ugualmente diciamo FM AM, c'ha l'SSB, l'USB, capito? E va da 24 a 30, c'ha la potenza regolabile, però sto uscendo con 5 watt sempre. Vabbè, con 5 watt non dà disturbo, dai. Va benissimo così, a me le città da pensare così, poi magari se devi fare qualche diessa o metti. Sì, esatto, poi automaticamente in banda laterale se ne va a 30 watt da sola. Va bene, dai, cioè, va bene, ma la voce adesso era un po' che non l'ha sentito, adesso ascoltandola bene non capisco che si giù, però all'inizio mi ha fregato, non riuscivo a capire chi. Perché magari eri da tanto che non mi sentivi, capito? E quindi sicuramente è cambiato il microfono, più o meno ha le stesse caratteristiche dell'altro microfono questo, però diciamo un microfono normale, io non sono per quelli preamplificati eccetera, perché mi rompe le scatole regolare, con questo schiaccia e parli, buonanotte, già va bene così. Ma questo è già sicuramente precompresso, perché ha una modulazione molto presente. Sì, sono quelli che hanno la capsulina, eccetera, sì, è come l'altro. Però l'altra radio proprio era... ho provato a riattaccarla e c'era quello del quinto piano, no? Gli ho detto guardi se arrivano disturbi, se per caso stamattina, ho detto, mi faccia un messaggio su WhatsApp e così, e lui mi ha detto sì, guardi adesso, invece da adesso in poi, no, adesso non sento più niente, quindi ho attaccato questa, ho detto allora questa va benissimo e quindi rimango con questa, capito? Questa è più prestante pure come radio. È interessante che si vada d'accordo, non deve avere problemi con il condome, è brutto quando c'hai problemi con il condominio. Io all'inizio poi ho avuto i problemi perché non me la volevo far piazzare l'antenna e ho dovuto presentarmi la legge, tutto qua perché ho un condominio, se no non me ne faccio malamente, ho dovuto prendere le firme da tutti i condomini che c'erano, che mi hanno autorizzato a piazzarla, perché se no mi hanno messo uno, ha messo anche l'asterisco, sempre ammesso che non crei disturbo. E infatti, meglio. Evidentemente, addirittura poi leggendo un po' di quell'altra radio che avevo, quella tedesca, praticamente in Svizzera l'hanno proibita proprio perché anche con 5 watt in AM FM creava problemi, capito? Alle comunicazioni, disturbava le TV, eccetera, molti apparecchi televisivi. Quindi evidentemente come diciamo è concepita e costruita e non era fatta molto bene, non era schermata, non lo so, e quindi le onde spurie che uscivano creavano disturbi. E l'hanno tirata troppo sicuramente, erano spurie, non era potenza, ma erano solo spurie. Vabbè, interessante che hai risolto, quindi in macchina non ne hai più. Sì, no, già ce l'ho quello piccolino che usavo sempre, anche linearetto, solo che l'avevo tolta, eccetera. Però già ci impiego 5 minuti a piazzare tutto, non è che è tutto predisposto già, capito? Quindi è che l'ho tolta perché il periodo scorso, diciamo, avevo avuto un po' di vari problemi, eccetera, quindi non stavo più modulando, ma già la rimetto. Adesso periodo estivo che le giornate sono più lunghe, magari se la ripiazza anche in macchina. No, io già la uso sempre, l'ho usata anche stamattina nella macchina, con Antonio, c'era Marco Condor, stavo parlando nella macchina, sono andato a prendere la rete, a fare un po' di commissioni, sono andato a prendere le pipette per il cane, perché io le prendo lì dove vendono la roba all'ingrosso, che vende roba farmaceutica, roba del genere, perché me la posso anche scaricare lì e le pago di meno, capito?